24 mattino. Eccoci qua, 8 e 16 minuti, 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi e è il momento di parlare di economia. Soldi e dintorni. Allora, anche oggi ritrovo Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno Alessandro, a te e a tutti i nostri ascoltatori. Allora, facciamo come con Deborah Rosciani, l'ABC. Ci vuole il microfono vicino alla bocca per parlare, perché Valeria De Rosa si era messa col microfono a 50 metri. Stamattina volevo urlare, era volevi urlare. Per svegliarmi meglio, volevo urlare tutto ciò che ho da dire questa mattina. Bene. Allora, io prima ho annunciato vita noleggio, ma sono sempre più le cose che gli italiani noleggiano invece che comprare. Molto interessante. Ma sì, perché stanno uscendo una serie di articoli su quotidiani nazionali che parlano di, ad esempio, l'ultimo, il titolo recita così: proprietà a Dio, la vita si noleggia. E si noleggia qualsiasi cosa. Fenomeno piuttosto allettante per noi femminucce, perché ad esempio si possono noleggiare borse costosissime per una settimana a dei prezzi accessibili, vestiti firmati ad esempio 7 in una settimana, che poi prevedono anche il lavaggio e lo stiro al termine della settimana, il tutto sempre per costi accessibili. Ma si possono noleggiare automobili, ad esempio una Ferrari. Alessandro, non so se la cosa ti può interessare, ma con 2000 euro al giorno, ad esempio, certo, questa modica ce cifra, li ho qua in tasca, ecco, ma esco di qui e vado a noleggiarla subito. Passare un sabato e far passare a tua moglie un sabato diverso dal solito. Non ascolterà sicuramente a quest'ora. E, a parte ciò, si può noleggiare veramente qualsiasi cosa, case, barche o anche attrezzature specifiche per lavorare. Quindi sono nati tutta una serie di siti anche, e noi oggi abbiamo invitato l'ideatore di uno di questi portali, noleggiotutto.info, Mario Miniati. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, prima di tutto vorrei capire se la descrizione che ho fatto, e quindi se è possibile davvero affittare, noleggiare qualsiasi cosa, risponde a realtà. Tutto si può affittare su questo mondo, purché si abbia la richiesta dell'affitto, logicamente. Si è creduto che è meglio affittare una cosa per un breve tempo e utilizzarne per il suo utilizzo che non acquistarla. Senta, signor Miniati, vorremmo capire se questo fenomeno, che pare che ultimamente abbia più successo del solito, sia anche legato al periodo di crisi che stiamo vivendo. Ma non ritengo sia un fatto di tendenza questo qua. Credo che magari tutte le società o l'ultimo utilizzatore, da analisi che fanno sull'utilizzo della macchina o del bene in cui loro intendono utilizzare, credo abbiano fatto questo tipo di esame e ne sono usciti con il discorso che il noleggio è più conveniente. Quindi da un punto di vista economico o anche pratico, diciamo? Fisico, esatto. Abbiamo sempre delle macchine nuove ed efficienti da utilizzare invece che avere delle macchine vecchie o usate. In più abbiamo sempre la macchina per l'esigenza giusta. Signor Miniati, abbiamo detto, lei ideatore del portale noleggiotutto.info, ci racconta un po' come avviene, cioè proprio praticamente che cosa succede, come faccio io a rivolgermi ad esempio sul suo sito, cercare e poi trovare l'accordo e via discorrendo? Diciamo che abbiamo un motore di ricerca abbastanza potente. Una volta che lei individua una singola voce o un elemento o un bene che più le soddisfa, digitando su un motore di ricerca, siamo sulle prime righe ad esempio di Google, le viene fuori il nostro sito con la parola che lei ha digitato. Da lì c'è il nostro ricco catalogo, dove può scegliere quello che le più soddisfa per l'esigenza che le necessita. Lei quando è che ha messo in piedi tutto questo progetto? Ma diciamo che l'idea è nata, quella di porre dei beni a noleggio, è nata un attimo da un'analisi per l'utilizzo di tutti quei beni che vengono utilizzati poche volte all'anno, generi, macchine, beni, anche cose di lusso, che sono richieste, dicevo, poche volte all'anno e che diventano indispensabili quando servono, però purtroppo essendo utilizzate molto poco rischiano di diventare obsolete nel giro di poco tempo senza averle utilizzate. E quando è che avete anche capito che diciamo tutto questo fenomeno poteva diventare un business, qualcosa di importante? Ma diciamo che partiamo dal fatto che oggi come oggi è caduta quell'alone di proprietà, quello che conta è utilizzare la cosa, apparire. In quanto la proprietà viene a meno e oggi come oggi non conviene, e di tutto questo capiamo che con il noleggio risolviamo più di una situazione. Senta signor Miniati, volevo sapere se lei aveva qualche dato relativo al giro d'affari, anche ad esempio anche solo del suo sito, ma qualche numero per poter inquadrare meglio il fenomeno. Diciamo che il fenomeno va inquadrato con l'incremento annuale che noi registriamo, un più 25 ogni anno che passa. Logicamente la nostra società è abbastanza giovane, sì. E compie 3 anni il prossimo gennaio e abbiamo da un determinato numero, il fatturato sta crescendo notevolmente ogni anno, infatti noi registriamo a quest'anno qua un 50% rispetto all'anno prima. È molto apprezzato come servizio. Gli oggetti più noleggiati? Ma diciamo che partiamo dal comune furgone alla comune autovettura, mezzi da cantiere, utensili, sempre da cantiere per agricoltura, per giardinaggio, dei motocicli, degli scooter, dalle imbarcazioni all'attrezzatura da evento o da discoteca. Quindi diciamo al suo portale si rivolge il piccolo, diciamo il privato, il singolo, ma anche l'impresa, la piccola impresa? Diciamo sì, abbiamo un range di piccole e medie imprese che si rivolgono a noi o anche il privato per fare delle feste private. Ho capito. Senta, signor Miniati, per quanto riguarda l'assicurazione, la copertura assicurativa, voi come vi comportate, come gestite questo aspetto? Ma diciamo che noi chiediamo quasi sempre a titolo cauzionale un deposito. Questo deposito qua può essere fatto in varie forme, dopodiché logicamente su mezzi un po' più importanti, su articoli un po' più importanti abbiamo stipulato delle polizze con delle assicurazioni che ci garantiscono il ritorno del bene, o che ne so, l'assicurazione sulla casco, l'assicurazione contro l'incendio, contro il furto, che normalmente si stipulano con le compagnie per quasi tutti i beni mobili. Lei diceva ovviamente all'interno di questo range di possibilità ci sono anche oggetti ad esempio molto costosi. Ecco, io vorrei sapere qual è il noleggio più costoso ad esempio sul suo sito e anche qual è quello più bizzarro, più strano. Ma diciamo che quello più costoso in assoluto è il Lamborghini Murcielago, il sogno di tanti giovani. È abbastanza gettonata quella macchina lì anche per fare degli eventi. Quello più bizzarro che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto per uno spot pubblicitario, prezzi bomba, il quale abbiamo noleggiato un carro armato. Ah, però, senta signor Miniati, l'ultima domanda, volevo capire questo, se per caso qualche volta vi siete imbattuti in clienti con cui avete avuto problemi di qualsiasi natura. Quello è sempre dietro l'angolo, purtroppo, sta un attimo a noi, ad esempio, sempre parlando del Lamborghini Murcielago, è successo un incidente con un cliente, la macchina era assicurata e purtroppo sono cose che succedono, quelle lì. È un rischio dato dall'attività che abbiamo scelto. Certo, quindi fate una sorta di selezione all'ingresso, diciamo così. Infatti. Abbiamo già dei parametri, insomma, delle avvisaglie per capire se un cliente è buono o meno. Benissimo, la ringrazio signor Miniati, a lei buon lavoro e buona giornata. Grazie, buona giornata. Come hai visto Alessandro, è molto semplice, puoi anche tu anche rivolgerti, no. Anche una Lamborghini. Allora, grazie Valeria, alle 12 c'è Salvadanaio. Alle 12 c'è Salvadanaio, oggi parliamo del rapporto tra banche e clienti, all'indomani anche dei richiami dell'antitrust, del presidente Catricalà nuovamente alle banche e alle attenzioni nei confronti dei clienti, quindi ci risentiamo dopo il GR delle 12. Sono le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, uno sguardo alle notizie in primo piano. Riforme per uscire dalla crisi, è questo l'invito al governo del presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che ha puntato sulla necessità di infrastrutture, liberalizzazioni, scuola e pubblica amministrazione più efficienti. Confindustria ha poi fornito le nuove previsioni economiche del centro studi, per il PIL quest'anno la contrazione sarà del 4,9%. L'inchiesta di Bari su un presunto giro di ragazze per feste nelle residenze del presidente del Consiglio Berlusconi, le audiocassette presentate dalla testimone Patrizia Daddario e che proverebbero la sua presenza a Palazzo Grazioli sono state acquisite dal PM che indaga, chiuse in un plico e sigillate. Lì si trovano anche i verbali della deposizione. Continuano le polemiche politiche, vi ricordo che ne parlerà Giuliano Ferrara dopo il GR delle 9. Investì due fidanzati con l'auto uccidendoli e fuggì. Per il pirata della strada Stefano Lucidi la pena in appello è stata dimezzata da 10 anni a 5. Da omicidio volontario si è passati a una condanna per omicidio colposo. I familiari delle vittime parlano di giustizia sotto zero. Infine, lo sport è per il calcio, clamorosa sconfitta dell'Italia, battuta 1-0 dall'Egitto nella Confederations Cup in Sudafrica. Ora gli azzurri di Lippi dovranno conquistarsi la qualificazione contro il Brasile. E infine, nella notte è arrivata la notizia di rottura sempre più vicina nella Formula 1 tra le scuderie, in polemica con le nuove regole imposte dal capo della federazione Mosley. Le 8 scuderie che non accettano le nuove regole, capitanate dalla Ferrari, hanno detto no all'ultimo compromesso, hanno deciso di incominciare la preparazione di un nuovo campionato. Tutto questo alle 8:33 minuti. E allora il numero per i vostri messaggi 349-238-6666, se volete qualche informazione sul referendum parliamo di quello, perché come detto a me ha molto colpito, un italiano su due, leggevo, non sa neanche che cosa si va, per cosa si va a votare. Per quel che riguarda il referendum ci sono i ballottaggi, ma c'è anche il referendum, tre schede che uno può prendere, può anche non prendere, perché sappiamo che l'astensione nel referendum è anche un voto, un modo per esprimere il voto. Facciamo un po' di informazione con il professor Roberto Dalimonte, che saluto. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei insegna sistema politico italiano all'Università di Firenze, scrive anche sul Sole 24 Ore, ieri ha scritto un articolo molto molto illuminante, a mio modo di vedere, insomma spiega bene quello che è un po' l'anatomia del referendum. Allora, professore, perché abbiamo chiamato il professor Dalimonte, uno dei massimi esperti anche di sistemi elettorali? Perché sul referendum, questa è la prima cosa, si vota per cancellare, se si vuole, parti dell'attuale legge elettorale. Ci sono tre schede, una verde, una bianca, una rossa, tre quesiti. Professore, io partirei dalla terza, se è d'accordo, perché è quella che è più chiara forse da capire. Certo. Quella che vuole abrogare, cancellare, cioè le candidature multiple. Attualmente un candidato qualsiasi può candidarsi in tutte le circoscrizioni che vuole, può essere dunque eletto in tutte le circoscrizioni che vuole, poi sceglie una volta che viene eletto. Questo cosa comporta, professore? Questo comporta che la persona plurieletta poi in realtà decide chi entra in Parlamento, perché decidendo di farsi di rappresentare la campagna invece della Sicilia, deciderà poi chi gli subentra in quella regione dove lui si ritira. Quindi è un altro degli elementi molto molto negativi del sistema elettorale, perché non abbiamo le preferenze, quindi gli elettori non possono esprimere una preferenza, e in più abbiamo anche il fatto che il Parlamento viene in pratica nominato dopo le elezioni, quando i candidati che hanno sono stati eletti in più circoscrizioni decideranno quale circoscrizione rappresentare. Mi risulta che circa un terzo dell'attuale Parlamento sia stato eletto così, cioè, non so, facciamo un esempio concreto, Berlusconi o Franceschini o Di Pietro o sì, Casini, così siamo un po' bipartisan, si candidano in tutte le circoscrizioni, uno pensa di andare a votare quelli lì perché li vede, in realtà uno viene eletto in Puglia ma decide di accettare l'elezione della campagna, in Puglia gli subentra quello dopo che io non so neanche chi è, insomma. Ma che non avevo votato, non avevo scelto. Esattamente, no, questa è sicuramente una norma che dovrebbe essere cancellata. Ecco, ma qui vorrei aggiungere una cosa che non è stata ben spiegata, e cioè anche chi fosse contrario ai primi due quesiti e quindi non volesse ritirare la scheda può andare a votare, ritirare la terza scheda e facendo questo non contribuisce in ogni caso al raggiungimento del quorum sui primi due quesiti. In ogni cioè voglio dire, io personalmente sono contrario al quesito numero uno e al quesito numero due. Io andrò a votare, ritirerò la terza scheda, voterò sì per abrogare questo scandalo delle candidature plurime, sì. Ma in questo modo, non ritirando la scheda numero uno, la scheda numero due, non contribuisco al raggiungimento del quorum. Questo è importante. Uno e due. Cioè uno può ritirare, questo è importante sempre come informazione, uno può ritirare su tre quesiti, poi ne può ritirare uno, due, tre o nessuno. Esatto. Il quorum è importante perché come sapete, ma è bene ribadirlo, bisogna perché sia valido il referendum che votino almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto. Esatto. Se non si raggiunge quel quorum. Calcolato su ciascun quesito referendario. Su ciascun quesito, esatto. Cioè, quindi sul quesito 1, il quesito 1 può raggiungere il quorum o no, il 2 uguale, il 3 uguale. Bene, quindi questa è, diciamo, il quesito numero 3, l'abbiamo chiarito. Più incertezza e più complicato sono le questioni del quesito numero 1 e 2, che sono sostanzialmente uguali, uno vale per la Camera, uno vale per il Senato. Esatto. Vogliono sostanzialmente, se passa il sì, abolire il premio di maggioranza alla lista più votata. Dare il premio di maggioranza al partito più votato. No, non è proprio così. Cioè, verrebbe abolito il premio di maggioranza alla coalizione. Più votata. Sì. Perché al momento. Sì, ho detto la lista, la coalizione. Coalizione, perché anche alla lista, perché al momento il premio può andare o alla lista più votata o alla coalizione più votata. Se vincono il sì al referendum, può andare solo alla lista più votata, non più alla coalizione più votata. Quindi vengono meno le coalizioni. L'ottica di chi ha promosso il referendum è, come dire, così costringiamo tutti i partiti, possiamo dire così, a fondersi in un unico partito, cioè facilitare il bipartitismo, facilitare una semplificazione, perché se un partito rimane da solo ma non ha una forza abbastanza per ottenere quel premio di maggioranza, si ferma, che ne so, al 5, il 6, l'8, il 10%, è chiaro che non otterrebbe mai quel premio di maggioranza. Invece costringendolo a dare al premio di maggioranza solo al partito che ottiene anche un solo voto più degli altri, costringiamo a creare grandi partiti, questo sostanzialmente, no? Questo sostanzialmente, cioè è un'ottica bipartitica, perché appunto, come ha detto lei, alla fine prevarrebbero i due grandi partiti. Cioè io, come ho scritto nell'articolo che lei gentilmente ha ricordato, prendiamo il caso della Lega, perché il punto è questo, è importante, il caso della Lega, perché la Lega è così contraria? Perché se vincono i sì al referendum, la Lega si trova costretta a scegliere tra lo stare fuori da un partito unico col PDL e quindi non concorrere al premio di maggioranza e non partecipare al governo del paese, o entrare in un listone unico col PDL ma scomparire in questo modo. Quindi dico, è un sistema che costringe partiti come la Lega, che hanno un radicamento territoriale importante, a scegliere tra l'essere irrilevanti, perché stando fuori dalla corsa al premio uno poi non partecipa al governo, o scomparire entrando in un listone unico dentro il PDL. Quindi questo mi sembra eccessivo. Io, che sono pure bipolarista, mi sembra una semplificazione eccessiva. È un po' come, professore, anche la stessa Italia dei Valori, infatti Di Pietro era, esatto, prima aveva appoggiato il referendum, poi ha capito forse probabilmente che dovrebbe in qualche modo unirsi al Partito Democratico per cercare di diventare il partito che conquista un voto più degli altri, e forse ha capito che questo vorrebbe dire perdere appunto una propria anche visibilità negli elettori, no? Che si presentano. No, questo è il punto, perché essendo, andando il premio ad un'unica lista, cosa succede? Succede che Di Pietro e la Lega dovrebbero entrare, presentarsi dentro quest'unica lista, quindi non avrebbero più la propria lista di candidati, non avrebbero più il proprio simbolo, non potrebbero più fare campagna elettorale per conto proprio. Ora, tutto questo viene giustificato dai referendari, come dire, è un antidoto alla frammentazione, e questo è giusto, perché la frammentazione è una patologia del nostro sistema. Però insomma c'è modo e modo, cioè non si può passare da un eccesso di frammentazione a un eccesso di semplificazione, almeno questa è la mia personale opinione. Insomma, l'Italia non mi sembra pronta a un bipartitismo così forte. Bipartitismo. E il mio timore è che volendo troppo poi alla fine non si ottiene niente, perché volendo il bipartitismo poi magari, come ho scritto in quell'articolo che lei ricordava, scompare anche il bipolarismo, perché cosa può succedere se vincessero i sì, dal mio punto di vista naturalmente, poi altre opinioni ovviamente sono legittime. Nel momento in cui vincessero i sì, la prima richiesta della Lega a Berlusconi è quella di cambiare la legge elettorale. E nel momento in cui si va a discutere in Parlamento una nuova riforma elettorale, dal mio punto di vista è più probabile che la nuova legge elettorale post-referendaria sia una legge proporzionale invece che una legge maggioritaria. Perché, cioè a dire, per essere più chiari, è probabile che sparisca il premio di maggioranza e torniamo ad un sistema tedesco, misto tedesco-spagnolo, proporzionale, più o meno come nella Prima Repubblica, e quindi a quel punto per avere cercato di raggiungere il bipartitismo, a quel punto sparisce. Si perde. Senta professore, si è parlato molto di questo premio di maggioranza, spieghiamo che cosa vuol dire, cioè sia quello attuale sia se passasse il fatto che viene dato alla lista, chi ottiene un voto più degli altri, che sia la coalizione alla lista, ottiene quanto di maggioranza? Credo il 55% dei seggi? 54% dei seggi, ottiene una garanzia, diciamo così, del 54% dei seggi alla Camera, e al Senato il meccanismo è su base regionale ed è il 55%. Comunque, in ogni caso, ottiene la garanzia della maggioranza assoluta dei seggi. Ecco, qui c'è un altro elemento importante che, a dire il vero, è un difetto anche dell'attuale legge, cioè che questo premio viene assegnato ora alla coalizione o alla lista più votata, indipendentemente dalla percentuale di voti ottenuta. Per cui una coalizione, una lista con il 30% dei voti o col 25% anche, potrebbe avere il 54% dei seggi. Questo però, cioè voglio dire, se le altre ottengono di meno, cioè chi ottiene un voto più degli altri scatta, diciamo, il premio di maggioranza. Esatto. Chi ottiene un voto più degli altri, indipendentemente da quale sia la percentuale ottenuta. Professore, abbiamo già chiarito, anche se ci chiedono, che uno può prendere una sola scheda invece che tre, invece che due, può prenderne nessuna, come per esempio ha detto appunto la Lega, che è contraria perché questo così non incide sul quorum. L'ultima domanda, l'ultima questione, professore, è che se dovessero passare sì, si modifica la legge elettorale, cioè si abrogano appunto alcune parti e rimane quella in base a quelli che sono i quesiti. È una legge elettorale che quindi rimane in piedi con queste modifiche. Qualcuno dice, ma così almeno poi la cambiano. Non c'è un obbligo poi in Parlamento di cambiare la nuova legge elettorale che dovesse venire da un sì ai referendum? No, non c'è un obbligo assolutamente, ma come no? Assolutamente no. Potrebbe restare questa legge elettorale, ma come le ho detto, dal punto di vista politico, io sono certo che se vincessero i sì, la prima richiesta della Lega Berlusconi per mantenere l'alleanza è quella di modificare la legge elettorale uscita dal referendum, quindi la legge elettorale referendaria, perché la Lega avrebbe questo come obiettivo vitale, prioritario. E a quel punto si apre un vaso di Pandora, come dicevo poco fa, da cui può uscire di tutto. Ma secondo me è più probabile che esca un sistema proporzionale. Da studioso della politica, infine, mi dica un sì o no, la stupisce che un italiano su due, come si leggeva, non ne sa, non dico quasi nulla, ma ben poco del referendum? No, non mi stupisce affatto, perché questi sono temi complessi che la gente non riesce. Io faccio fatica a spiegare queste cose ai miei studenti della facoltà di scienze politiche, figuriamoci a milioni di elettori. Quindi sono cose complicate, sono cose che poi non interessano più di tanto gli elettori, che sono invece preoccupati da altre cose ben più bellenti, e quindi capisce, poi non c'è nemmeno quel clima che c'era negli anni 90, per cui, ma anche il referendum del 93, il mitico referendum del 93, lei crede che gli elettori potessero distinguere tra sistema proporzionale e sistema maggioritario? No, questo sì. Dopodiché il dovere, io nel ringraziarla intanto, professor Roberto Dalimonte, che insegna, ripeto, sistema politico italiano a Firenze, editorialista del Sole 24 Ore, la ringrazio, insomma, speriamo di aver contribuito a far chiarezza. Dopodiché uno si deve anche un po' informare a questo mondo, se vuole davvero essere consapevole delle scelte che fa, altrimenti proprio entrare nelle case di tutti non si può. Abbiamo già detto tante volte, ma ci chiedono, si può ritirare una scheda? Se ne possono ritirare due, se ne possono ritirare tre, se ne possono ritirare nessuno, si può andare a votare, si può non andare a votare, si può fare come si vuole. L'importante è saperlo. Dice, mi dia solo la scheda numero 3, mi dia la 1, mi dia la 2, oppure se le tenga. Si può fare tutto. 24 mattino. Allora, 8:48 minuti, domenica dalle 19:30 alle 23:30 ci sarà questa grande manifestazione, tante cantanti, tutte donne a San Siro per un concerto per raccogliere fondi per l'Abruzzo. Un evento che anche Radio 24, come tanto radio in Italia, seguirà in diretta. Vogliamo parlare di questo. Innanzitutto vogliamo parlare, poi vi svelerò dov'è Deborah Rosciani, così lo sapete. Vogliamo parlarne innanzitutto con una di queste artiste, Fiorella Mannoia, che abbiamo sentito, tutta iniziativa che è nata da Laura Pausini, ha coinvolto Giorgia, Elisa, tantissime cantanti, davvero un'iniziativa bellissima. Con Fiorella Mannoia abbiamo fatto due chiacchiere, poi andremo all'Aquila ovviamente per cercare di capire com'è la situazione. E allora, Fiorella Mannoia e il terremoto e l'importanza di cantare per il terremoto. Ma io ero sveglia quando ho sentito la scossa, per cui per sentirsi a Roma, che non è zona sismica in quel modo, in maniera così abbastanza forte, ho immaginato subito che da qualche parte doveva essere successo il peggio. Poi queste sono sensazioni che come si descrivono? Cioè, quando si va a vedere un posto così o si assistono a quelle scene dalla televisione, ognuno di noi intimamente sente quel che deve sentire, è difficile poi poterlo esprimere, no? Con le parole. Lì è successa una tragedia grande, che è ancora in corso, che non è stata ancora risolta e che si spera si risolva in fretta, ma è stata la prima volta che un terremoto ha colpito un capoluogo di provincia. Cosa si deve fare per non dimenticare questa tragedia una volta che magari finirà anche l'impatto emotivo anche di un concerto del genere? Io penso quello che posso fare io personalmente. Io personalmente penso periodicamente di tornare a trovarli, cercare nel mio piccolo di non farli sentire soli. Certo che è una goccia nel mare, perché noi possiamo fare ben poco. Stiamo facendo un concerto anche a Roma allo Stadio Olimpico la sera prima. Infatti farò un toccata e fuga di qua e di là la sera prima a Roma e il giorno dopo a San Siro. Cerchiamo ognuno nel nostro piccolo di far qualcosa. Ti ripeto, siamo una goccia nel mare, no? Entrando all'Aquila tu vedi un grande manifesto in cui dice: dateci le ali e torneremo a volare. Noi le ali certo non possiamo ritagliere, ma almeno una piuma di quelle ali, se ci riusciamo a regalargliela, siamo ben felici. Ognuno deve fare il suo dovere per cercare di mantenere viva l'attenzione, perché non c'è niente di più terribile di essere dimenticati. Poi in Italia sai come vanno le cose, no? I Irpini ancora stanno lì, che alcuni combattono con le case, insomma, speriamo che questo non succeda. Manteniamo viva l'attenzione e non facciamo sentire questo popolo così fiero, così dignitoso, non abbandoniamolo, non lo facciamo sentire solo, perché non se lo merita, come certo. Non se lo merita nessuno peraltro. E certo, allora questo Fiorella Mannoia sarà anche lei tra le amiche per l'Abruzzo domenica a San Siro a cantare dalle 19:30 con Radio 24, che trasmetterà in diretta questo importante evento. Tra l'altro, poi lo ricorderò in chiusura, voglio andare però all'Aquila, dove voglio salutare chi certo come rappresentante non si è dimenticata dalle prime ore, non si dimenticherà per mesi e mesi di quelli che sono i problemi più struggenti da affrontare, vale a dire un funzionario della Protezione Civile, Antonella Scalzo, che saluto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Lei fa parte dell'ufficio gestione delle emergenze, tra l'altro è geologa. E, insomma, uno dei problemi è quello proprio delle case, ovviamente. Innanzitutto, quante sono le persone che ancora attendono una casa, che ancora ovviamente sono fuori dalle case? Beh, al momento abbiamo circa 53.000 persone ancora assistite tra tende, strutture di ricovero, alberghi sulla costa. Chiaramente questi numeri, con nostra grande gioia, stanno diminuendo. Abbiamo raggiunto dei picchi più elevati a fine aprile, ma man mano che vengono fornite le agibilità degli edifici, questi numeri continuano a diminuire, perché la gente rientra nelle proprie case e parallelamente si sta lavorando per fornire a tutte quelle persone che invece non hanno la casa agibile delle soluzioni alternative, che possono essere varie, da contributi per autonoma sistemazione, poi invece a nei casi più gravi di situazioni, appunto, di abitazioni inagibili, dichiarate inagibili, certo, casette in legno o strutture, complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili, che sono delle strutture, delle costruzioni prefabbricate che verranno, i lavori sono già iniziati e le prime verranno consegnate già da settembre. Quindi si continua a lavorare, per noi è questa la priorità massima adesso, e appunto, come diceva Fiorella Mannoia, noi facciamo il nostro dovere, facciamo il massimo, il possibile per risolvere e sostenere gli abruzzesi, anche perché dal terremoto dell'Irpinia sono passati molti anni, molte cose sono cambiate, la struttura è completamente diversa, quindi facciamo il possibile per risolvere per assistere tutti. È certo che 53.000 persone sono davvero tante, ma questo è importante da tenere a mente anche questa cifra per capire insomma la portata di questa tragedia. Io Antonella Scalzo la saluto, purtroppo il tempo è anche un po' tiranno, oggi devo chiudere un po' prima e allora sì, ma sì, Deborah Rosciani la trovate a San Siro, perché Roberta Giordano sarà qui nei nostri studi a condurre per Radio 24 dalle 19.30 di domenica, mentre Deborah Rosciani sarà lì sul palco di San Siro. Andate a San Siro così potete vederla insieme a tantissime donne, ovviamente tutta la conduzione anche al femminile di tutte le radio che partecipano a questa iniziativa Amiche per l'Abruzzo, domenica dalle 19.30. Ci fermiamo qui, grazie, tra poco Giuliano Ferrara, la vicenda di Bari, l'inchiesta e ciò che ne consegue dal punto di vista politico. Grazie Alessandro Marcotulli e Laura Marchesi in redazione, Carmelo Lauricella in regia, e noi ci troviamo con 24 Mattino lunedì.